in modulazione di frequenza anche per oggi, mercoledì 25 settembre del 2019, inizia prove tecniche di trasmissione. Solito dunque appuntamento del mercoledì sera, questa nuova stagione che finirà nel 2020. 0649 1750, contatto telefonico www.ondarossa.info, anche per ascoltarci attraverso lo streaming. L'indirizzo email della radio è ondarossa@ondarossa.info. Per quanto riguarda anche la possibilità di risentirsi in maniera postuma questo programma, si può andare domani sul sito della radio testé enunciato, oppure sulla pagina Facebook prove tecniche di trasmissione /disorder. Per sottoscrivere per Radio Onda Rossa c'è il conto corrente postale che è 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Viavolci 56 00185, Roma. Le modalità più elettroniche si possono rintracciare sul sito stesso della radio. Salutiamo Isaitual dalla Lombardia, Lucia Chiazza in quel di Udine, da Firenze Antonio Zoviet, qui da Roma il grande Like Wake, ottimo musicista al pari di quelli enunciati, omicidio Antonio Zoviet e Lucia Chiazza come Lupsi. A Roma abbiamo anche Xenia Laginia, anche lei affezionata di questi spazi. Iniziamo dall'Italia e lo facciamo con un due tracce di un personaggio a noi particolarmente chiaro. Trattasi di Alessandro Camilletti, in arte Psycho Kinder, uno dei progetti italiani più interessanti. Un progetto che si muove tra ambient, cantautorato, atmosfere crepuscolari e meste e anche sperimentali. È uscito appunto queste due tracce che si chiama Un disegno infantile all'ombra di metafore, quindi questi due titoli sono delle rispettive due brani che ci andremo ad ascoltare. La collaborazione dal punto di vista della musica è quella di Lino Capravaccina, una vecchia conoscenza della musica, credo provenga addirittura dal prog, perché leggo Actuala e altri progetti degli anni 70, quindi una partecipazione importante che affianca Alessandro Camilletti. Dunque partiamo con Un disegno infantile e poi subito dopo All'ombra di metafore. Ricordavano un disegno infantile. Si manifestava così la grazia della natura. degli alberi. La grazia della natura. In gran disordine, ricordavano un disegno infantile. Si manifestava così la grazia della natura. Benissimo, due vere e proprie tavolozze espressive, mi piace associarlo a un bel quadro. Spesso mi accade con le opere di Psycho Kinder. Versi magistrali, poetici, belli, per certi aspetti anche glaciali, con queste bellissime metriche. Bello anche il fatto di essere in esilio dal tempo. Mi piacerebbe assai, aggiungo io, essere in esilio dal tempo, ma non è così. Le atmosfere musicali sono così elegiache, crepuscolari, quasi nebbiose. Disposti in grandi ordini. E il tessitore magico, appunto, è Alessandro Camilletti, che ci sta ascoltando dalla sua casa in quel delle Marche. Un disegno infantile all'ombra di metafore, con la preziosissima collaborazione di Lino Capra Vaccina, che ha curato la parte musicale, una vecchia conoscenza della musica italiana anche degli anni 70. Il tutto esce ovviamente attraverso la fonetica meccanica, etichetta stessa di Psycho Kinder. Naturalmente lo teniamo sotto osservazione nella speranza prossima di un album vero e proprio. Intanto si sono aggiunti ed hanno, spero, sentito anche questi due capolavori: Mano Fais, Pioggia d'Ambra, Enrico Lepera qui da Roma, il medico della peste, anche lui un affezionato, Nicola Locci naturalmente dalla Sardegna, che salutiamo. Gli alberi. Rimaniamo in Italia attraverso la 8 Tower Records, etichetta di Raffaele Pezzella, collaboratore a distanza di questo programma. Si chiama Drone Island Land Rising, questa ottima compilation che dal nome anticipa un po' la tematica del drone, della musica rarefatta, anche se in alcuni frangenti sfocia nel ritualismo vero e proprio. Intanto Antonio Zovet, che ringraziamo, ci posta Wikipedia proprio su Lino Capra Vaccina, lo ringrazio. E dunque torniamo a questo Drone Island. Ci andiamo ad ascoltare un artista svedese dal nome Stefan Klaverdal con Ambient Earthquakes. E poi un altro artista dal nome Extinct Primal con Passage. queste partiture così, diciamo, al limite del dark ambient sono di Stefan Klaverdal, artista svedese, che, come giustamente dice Antonio, può ricordare anche in certi frangenti l'altro svedese di famoso in questa scuola, ossia Horizon Dietr. Il prossimo artista si chiama Extinct Primal, il brano che andremo ad ascoltare, Passage, sempre da Drone Islands. Jan Krummel, in arte Instinct Primal. Molto bello il sito instinctprimal.com, dove c'è una bellissima foto e una descrizione più accurata della concezione sonora di questo artista. È bello il nome Noise Ambient, Heavy Ambient, è il più famoso Fields Recordings, anche registrazioni dunque sul campo, rumori di ambiente, come si è potuto anche intuire da questa traccia dal nome Passage. Salutiamo un altro grosso artista all'ascolto, Solar Lodge, con il nome di Fulvio Biondo, che si nasconde dietro questo pseudonimo, anche lui un pezzo di storia della musica sperimentale italiana. Eccolo Luciano FM Genovese, tira fuori il paragone con Thomas Conner, che ci può anche stare, insieme a Biosphere ed altri. Noi invece ce ne andiamo in Giappone, l'Ant Zen, la formichina Zen, l'anti-zensur che dir si voglia, ossia contro ogni forma di censura. Questi sono i due significati di questa label tedesca. Lui, dicevo, invece giapponese, Gutenberg, questo è Necessary Bronze, terzo lavoro, dal quale estraiamo Cape Style, uno dei brani più introspettivi e meditativi di questo ultimo lavoro, uscito il 17 giugno di quest'anno. Terzo lavoro per il giapponese Gutenberg, A Necessary Bronze, terzo lavoro che esce, come ho già detto, per la Lant Zen. Salutiamo anche Loredana, anche lei spesso si è cimentata nell'ascolto di questi suoni in prove tecniche di trasmissione, quindi la salutiamo caldamente. Un ottimo artista questo giapponese. Shuji Sakurai, tre lavori, l'ultimo appunto per Anzen. A metà tra sperimentazioni ambientali e elettronica più riconducibile proprio al filone Anzen, quindi confinante con il tech noise. Ancora Italia e anche qui suoni dall'afflato esoterico religioso, e sto parlando di New Procession Order, l'album è Crucifego, un progetto romano dove c'è Alessandro Papa, Marcello Fraiori, Gloria Bazzocchi e in questo caso anche come ospite, un grande ospite, Simon Ballestrazzi. Sentite intanto i clanglori industriali di Gutenberg che manderemo anche la prossima settimana. Tornando ai New Procession Order, Crucifigo, dunque ci ascoltiamo Alma Deum e Omsahan Hamsha, tra gli ospiti anche Corrado Altieri, altro pezzo di Sardegna insieme a Simon Ballestrazzi. Jamie. l'ottimo crucifigo di qualche annetto fa per New Persistent Order. Un album uscito esattamente nel 2015 attraverso la End of Kali Yuga Editions. Corrado Altieri e Simon Ballestrazzi come ospiti di questo progetto, invece capitanato da Alessandro Papa, Marcello Fraioli, Gloria Bazzocchi. In altri frangenti anche altri artisti: Marco De Plano, Gabriel Marzi, Claudio Giammarini, Claudedi. Una prima traccia evidentemente dalla percezione tribale, una seconda invece tra psichedelia e un finale nettamente noise. Andiamo avanti, intanto sono le 21:50, questa è naturalmente Radio Onda Rossa e la frequenza è 87.9, il sito è www.ondarossa.info per lo streaming, anche questa sera molto frequentato e di questo ovviamente ne sono felice. Adesso ci spostiamo in Slovenia e diciamo in Slovenia, tra la Slovenia e la Repubblica Ceca per essere più precisi, per un progetto che dal sottoscritto è stato abbastanza trascurato negli anni e quindi in un certo senso mi sento il dovere di recuperare il tempo perduto, e lo faremo con una serie di album che manderemo pian pianino nel tempo. Sto parlando degli Autopsia. Autopsia è una realtà vivente, esistente, operante dall'inizio degli anni Ottanta e soprattutto fino a oltre la metà degli anni Ottanta. Si esprimeva soltanto tramite cassette vecchie, vecchio formato molto tipico della musica industrial di un tempo, e è ritornato parzialmente in auge di questi tempi. Questo lavoro si chiama Oscularum Infame. Era il secondo, se non erro, del 1987, ma in realtà, come ho detto, ha anche dei brani dell'81, dell'84, dell'83, eccetera, eccetera. Si apre con Crovene Nozzi e il secondo è Ignis. Me pide que yo te haga stretching of red gun options, stretching of red husbands, stretching of the red gun times, stretching of unopened envelopes, stretching of a white silk calf, stretching of the plate glass mirror, sitting on the overstuffed chair, sitting still in summer, sitting of the ivy twists, sitting of the red tendrils, sitting and dressing spring, beyond the tree, a black butterfly. Does Christ never get tired of bleeding? Does Christ never get tired of bleeding?